Via. Eccoci ritornati amici. Allora, prima di presentare il prossimo ospite che abbiamo questa sera, io vorrei ricordare che abbiamo una nuova chat che è su www.chat.it. Dovete cercare il gruppo web Radio Luzzi. Da lì non c'è bisogno di, non è necessaria una registrazione. Se volete loggarvi semplicemente per una sera, c'è apposta una piccola casella di testo dove inserite un nickname e verrete loggati direttamente nella chat. Premere il tasto entra come ospite. Entra come ospite, grazie, perché non lo ricordavo. Vi invitiamo tutti in questa chat perché ci troverete quasi sempre tutti lì. E niente, quindi do la linea all'avvocato Papilia, che è un nuovo ospite di Web Radio Luzzi. Sì, buonasera. Mi sto conzando il microfono, cortesemente. È buono il microfono. Signore giudice, ritengo ridicolo io stare in quest'aula a difendere una palese donna innocente. Avvocato, ma quale cazzo di innocenza? Il suo assistito ha ucciso a colpi di bastone del cassiere, sì, dell'Herman Beach. A parte che Herman Beach, comunque, signor giudice, innanzitutto incominciamo a dire come le cose stanno. Che l'avvocato mio non ha ucciso il cassiere con un bastone, ma con una mazza da baseball. E guarda caso si chiamava Charlie. Avvocato. E che cosa c'entra questo? E c'entra, mio caro giudice, perché il mio cliente è un assiduo frequentatore dei concerti e spesso lo si vede a Spezzano Silva a vedere Cristicchi. E poi sì, lo riconosco che il mio cliente è un poco collerico e meriterebbe il manicomio. Ma se condanniamo quest'uomo, che dire di questi che abbandonano gli hobbit in autostrada? Di questi che si fregano gli ombrelli dal parrucchiere? Di questi che vedono di notte un monachiello? O di questi che vogliono comprare la maglia di Giuffrida alla bancarella? Avvocato, ascolti, innanzitutto abbassiamo i toni. Lei ha un pochettino la voce alta. Te frega io. Poi, il suo cliente questa settimana ha cantato Italia amore mio, in biblioteca voglio precisare, e poi ha strangolato anche il suo compagno di armadietto. E allora? E che siamo ad Alcatraz, dove non si possono cantare le canzoni di Pupo? La donna da quel giorno, sì, era vero, non era tanto acculturato, ma pure mo. E così è andata a farsi culturare. E poi lei non sa quanto costano i Bacardi all'Avancia, 50 euro! Avvocato, 50 euro per un Bacardi? Signore giudice, ma dove vive? In Papuasia, alla Serricella, all'Isola delle Bionde? Ma lo sa che il Bacardi è ringarato? Che va quasi quando la miscela. Signor giudice, lei ha più umorismo di pelle coro, guarda. Ma chi siamo noi per dire chi è Manfredo e chi è Tedesco, chi è Umberto, chi è Federico, chi è Flaviano, e dove è tutta sta gente? Chi siamo noi per dire chi è migliore tra Luzzo e Bisignano, Cosenza e Cutrone, o se è giusto lavarsi come fa Chiratro un sabato sì e un sabato no? Ma ve lo ricordate l'oggi di biciclette, dove c'era quel gruppo di giovani che sgraffignavano a man basso di notte? Dimenticato, l'ho sbagliato esempio. Volevo dire vacanze di Natale 93, 83 anzi, ma mi è uscito quello. Comunque, sicuri di un verdetto favorevole, attendiamo con fiducia il vostro giudizio. Allora, vediamo. Visto gli articoli 69, 33 e bim bum bam, questo tribunale condanna il suo cliente alla pena dell'ergastolo. Ma come l'ergastolo? Zitta donnola, che ti è andata bene! Il giudice non lo sa che stasera deve ascoltare, non aprite quella persiana. Applauso!